Salutiamo con un applauso il segretario generale della FNP Emilia Romagna, Loris Cavalletti, che ci ha raggiunto per partecipare al nostro lavoro. La parola a Paolo Pozzo, responsabile delle ISCO, si prepari, Sandrin Adriano, del Piemonte orientale. Diamo il microfono e procediamo. 4 minuti? 10. Più 2 enti, 10 biglietti. Sono anche l'anno. 10. Faccio come la buona. Ci starò dentro. Cerco di essere contenuto. Parto dal video. Il video mi è piaciuto perché ci ricorda la nostra storia, no? Ci ricorda, adesso con la celebrazione dell'Europa, ci ricorda un po', partiva anche da prima, ma gli ultimi 60 anni, no? Vedere le facce, le persone, le lotte, le conquiste, la fatica, che hanno interessato tante persone, mi sembra una cosa estremamente importante, mi emoziona pure, perché mi ricordo chi dentro la mia famiglia mi ha dato questi esempi, attraverso la storia personale, e mi ricorda le persone che mi hanno insegnato tanto, dentro e fuori dalla famiglia, tante dentro il sindacato, tante dentro questa stanza, tante fuori da questa stanza, ma sempre del nostro sindacato. Prima chiedevo a Gianni se è disponibile questo video per farlo girare, credo che, con i dovuti limiti del copyright naturalmente, che ovviamente nella società digitale, globale, però ovviamente in agguato, credo che queste facce, queste storie, questi contenuti debbano continuare a girare, debbano diventare patrimonio di chi queste fasi storiche e sociali non ha vissuto. Perché forse oggi, qualcuno lo citava stamattina, no? Non sapere chi sono i partigiani, che tristezza, no? Forse oggi stiamo costruendo una società che non basa abbastanza sulla nostra storia, la nostra cultura, la nostra visione del mondo così come la vogliamo, e quindi credo che queste cose vadano recuperate. Quindi io vi chiedo veramente di essere testimoni di questo all'interno della vostra famiglia, all'interno della vostra società. È una cosa, io non sono giovane, no? Ho 50 anni, però ragazzino ancora. Però sinceramente credo che siano esempi che valgono e che devono continuare a valere per la nostra società. Anche perché in questi 60 anni, diciamo 60 perché stiamo nel compleanno europeo, la cosa che si è riuscita a fare a costo di tanta fatica è coniugare la crescita economica con lo sviluppo sociale. L'Europa è l'esempio per il mondo per questo fattore, che è fondamentale. Io l'ho assistito da figlio, ho partecipato in piccola parte, ma parlo con gente che questa roba l'ha vissuta proprio. E invece sembra un po' di essere arrivati un po' alla fine di un ciclo, no? Sta ricominciando un ciclo un po' diverso, si è spezzato il filo. Si è spezzato perché nel mondo ci sono paesi che crescono di PIL a due cifre, ma socialmente con i diritti non crescono, cresce l'economia ma non la società, perché ci sono dei rivolgimenti, dei cambiamenti anche recenti, anche molto attuali, no? Cioè, 8 anni fa si eleggeva Obama, oggi Trump. Il Brasile negli ultimi 15 anni di Lula, il sindacalista che ha fatto crescere socialmente con politiche inclusive, che ha tolto 30 milioni di persone dalla fame, che ha portato la crescita sociale in questo grande paese. Oggi questo paese vede, la settimana scorsa, un governo di destra con un impeachment molto forzato, che ha preso il potere e vota una legge per la terziarizzazione dell'attività primaria in tutti i settori produttivi. Alcuni non sono ex sindacalisti o sindacalisti, lo stanno diventando oggi, ma sappiamo di cosa parliamo. Significa spezzare il ciclo produttivo, la catena, distruggere il sindacato, massacrare i diritti del lavoro, abbassare i salari. La terziarizzazione, che quella terziarizzazione oggi è ancora vietata in Italia, ma gli effetti delle cooperative nei vari ambienti di lavoro li abbiamo vissuti tutti, no? In contrattazione. E un'Europa dove anche lì il ciclo è finito, quanto impegno ci vuole a farlo proseguire perché non cambi verso? E l'Europa che di fronte alla crisi risponde con precarietà e austerità, l'abbiamo visto negli ultimi anni, con gli effetti abbastanza devastanti, dove la precarietà diventa la ricetta per continuare la crescita economica, ma non quella delle persone, dove i giovani hanno sempre meno opportunità, passano da un paese all'altro alla ricerca di opportunità, ma ce ne sono poche. C'è addirittura la definizione dei NEET adesso, no? Cioè quei giovani sotto i 30 anni che non studiano, non lavorano, non cercano lavoro perché non hanno assolutamente l'idea di costruire delle opportunità nella vita, e sono numeri grandi. Abbiamo i lavoratori poveri, che per definizione sono quelli che hanno un lavoro regolare, full time, ma non guadagnano abbastanza per campare la famiglia. Decine di milioni in Europa, questi lavoratori poveri, tanti li abbiamo in casa noi, e abbiamo poi anche i pensionati poveri, no? Coloro che non hanno più dal welfare e dal sistema l'opportunità di vita decente. Siamo l'Europa di 504 milioni di abitanti che, a fronte di mezzo milione di profughi, si considerano invasi, un fenomeno non gestibile, l'uno per mille. L'Europa, l'Italia ha dei distinguo importanti, perché l'Italia, con tutti i limiti e le difficoltà che questo fenomeno sta facendo vivere a tutti noi, è l'Europa che però accoglie. È l'Europa che la settimana scorsa ha fatto una legge, primo paese europeo, che dice che i minori non accompagnati che arrivano in Italia, e sono tanti, sono decine di migliaia, quelli che arrivano sotto i camion o sulle barche attraversando il Mediterraneo, arrivano spesso non accompagnati, o perché fanno tutto il viaggio da soli o perché i loro genitori muoiono durante il viaggio. L'Italia ha votato una legge che dice: non si rispediscono indietro, si tutelano, si proteggono. E allora, per questo, fatemi dire, unico congresso, forse anche l'inno, ogni tanto ce lo dovremmo anche sentire, che ci fa bene. Questa Europa sta cambiando verso, non è il nostro ideale d'Europa, ma evidentemente ci dovremo impegnare fortemente. Allora lì il rinascimento del sindacato forse c'entra anche questo, perché se vogliamo promuovere un modello di società equa e sostenibile, ovviamente ci dobbiamo impegnare in prima persona. Come movimento sindacale lo possiamo fare, lo dobbiamo fare, soprattutto perché questo modello nuovo passa dal lavoro. Il lavoro e la persona rimangono il centro. Questa Europa che rifiuta i migranti, da qui al 2050 avrà bisogno di decine di milioni di nuovi lavoratori, di nuovi cittadini, perché noi, il calo demografico ci dice che noi non manterremo la produzione e quindi le tasse e quindi il welfare se non accoglieremo. Si stima 90 milioni di nuovi cittadini necessari all'Europa nei prossimi 35 anni. Dobbiamo studiare l'approccio e dobbiamo studiare il modo di riuscire a farlo, poi dico due robe su questo. L'Africa, da cui parte il grosso delle persone che arrivano qua, e l'Africa che invece cresce demograficamente, e sempre da qui al 2050 avrà bisogno di centinaia di milioni di nuovi posti di lavoro. La gente c'è, manca il lavoro, e se le persone non hanno un'opportunità a casa loro di lavorare, di costruire, di mandare i figli a scuola, di non fare la fame, di vivere in democrazia, la gente scappa, la gente si muove, perché l'abbiamo fatto noi quando queste caratteristiche qui non c'erano. E allora bisogna anche aiutare a costruire in quei paesi, magari dismettendo le politiche neocolonialiste che hanno caratterizzato il rapporto tra i paesi ricchi e i paesi poveri nell'ultimo secolo, e cominciare invece a implementare altro tipo di politica. Siamo un sindacato, e siamo un sindacato di un paese che è un ponte in mezzo al Mediterraneo. Ce ne rendiamo conto, perché i problemi li viviamo tutti i giorni. Abbiamo una responsabilità per vicinanza e per capacità. La CISA negli ultimi anni ha ridato spinta all'attività internazionale. Dopo anni di freddezza, questa segreteria nell'ultimo mandato ha ridato uno slancio estremamente importante. ci si trova, si ragiona, si costruisce attraverso gli strumenti che abbiamo, il Dipartimento Internazionale, le categorie che si interfacciano con i sindacati europei e dal resto del mondo, per lavorare nella contrattazione a livello globale, perché molte imprese sono globali. E poi l'ISCOS, che è uno dei pezzi su cui lavoro io, che è l'Istituto di Cooperazione allo Sviluppo. Noi promuoviamo sviluppo socio-economico e sosteniamo i sindacati in molti paesi, attualmente 24 paesi nel mondo in cui siamo attivi. Promuovere il sindacato nel mondo, lo sappiamo noi, il sindacato è uno strumento di crescita e di democrazia e di partecipazione. Il ruolo che abbiamo avuto noi in Europa è stato importante e dobbiamo cercare di aiutare a replicarlo in altri paesi. E poi l'ANOLF. L'ANOLF lavora per l'integrazione sul territorio, l'accogliente e l'integrazione dei migranti, che molto danno al nostro sistema oggi, attualmente. Ricordiamoci che sono i 5 milioni di irregolari qua che pagano 600.000 pensioni, no? Producono PIL, pagano tasse, non sono tutti, no? Disperati o parassiti, come qualcuno vuole farci credere. Promuovere i lavori in questi paesi diventa fondamentale, e promuovere un modello diverso di migrazione. L'Europa non ha bisogno delle persone che giungono oggi disperate in fuga, l'Europa ha bisogno di migrazione qualificata. Il modello su cui si sta lavorando oggi, l'Europa e tutti coloro che hanno buon impegno, no? E buona, arrivo, finisco, lavorano sul modello di migrazione circolare qualificata. Cosa vuol dire? Fare sviluppo nei paesi di origine, fare formazione professionale, creare occupabilità e creare delle persone, dei lavoratori che possono venire in Italia e in Europa a svolgere un compito e avere un percorso migratorio positivo. E prevedere anche che alla fine del percorso migratorio sia un rientro in patria, si faccia occupazione nei paesi di origine, si faccia quella crescita economica, sociale e democratica che serve a questi paesi. Noi ci mettiamo il nostro impegno, è un lavoro specialistico, ma è patrimonio di tutti. Non serve fare il progetto per quanto bello o ben riuscito e per quanti soldi riusciamo a trovare dalla Commissione Europea, dal nostro Ministero, che anche lì finalmente qualcosa sta di nuovo mettendo, se questa visione non diventa la visione del sindacato e della società italiana ed europea. Per questo è importante che tutti partecipino, per questo è importante che questi valori appartengano a noi e che noi li divulghiamo attraverso i nostri canali, ai nostri iscritti, ai nostri militanti, alla nostra base, alle nostre famiglie, ai nostri concittadini. Questo con la FNP lo facciamo e bisogna dare atto. Guardate, abbiamo solamente messo un volantino dentro la cartella. Il Presidente ha citato l'iniziativa, sono già andato in macchina a prendere scatole di riso 4 volte perché lo stavamo finendo. L'impegno di tutti è importante perché con poco si può fare molto, e io per questo ringrazio la FNP del Piemonte che ci finanzia dei piccoli progettini che però sono la scuola, che però sono il centro dove le ragazzine, anziché stare in strada senza famiglia, a rischio prostituzione, vengono accolte, educate e protette. E anche per esempio con l'iniziativa di oggi, laddove vendiamo del riso che va a finanziare un progetto in Perù per far sì che i giovani non scendano e non si vadano a urbanizzare, a perdersi, ma rimangano a produrre con una opportunità nel loro territorio. Con l'appoggio della nostra categoria raggiungeremo dei piccoli risultati che però vi assicuro sono importanti perché salvano la vita alle persone. Grazie. Paolo Porto, vi ricordiamo che per l'acquisto del riso, al quale alludeva Paolo Pozzo, c'è tempo solo oggi perché domani il banchetto non c'è, quindi andiamo, passiamo mentre andiamo a fare la verifica alla Commissione Verifica Poteri, compriamo 1 chilo di riso, la FNP donerà 2 euro al progetto, abbiamo riso per una cosa seria, grazie. Ora è il turno di